Con Roberto Sabatini dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti per presentare la proiezione del film Giordano Bruno di Giuliano Montaldo a Roma, al Cinema Farnese, domenica 17 febbraio 2019. Roberto, ben trovato. Grazie, grazie anche di questo invito. Dunque, tra pochi, noi cominciamo tra una mezz'oretta circa, cioè poi ci sarà naturalmente l'ingresso, le persone ci saranno, ma è l'ordine di grandezza, abbiamo la sala Le Farnese, che è un cinema per noi particolarmente significativo perché è proprio a Campo dei Fiori dove 419 anni fa venne arso vivo questo straordinario personaggio che per noi è anche un simbolo. Un simbolo della lotta contro ogni dogmatismo, contro ogni mutilazione della nostra umanità. Speriamo di avere il regista, l'abbiamo invitato, ci ha dato la sua disponibilità, purtroppo è molto anziano e non sappiamo ancora adesso, mentre visto che stiamo facendo queste considerazioni, non sappiamo se lui può venire. Ma in ogni caso lo facciamo anche in nome suo, perché è stato un documento di grandissimo valore artistico. Il suo film è l'interpretazione di Gian Maria Volonté, semplicemente sublime. Quindi siamo contenti di poter, è la prima volta che riusciamo a fare un evento di queste proporzioni, come UAR, come anzi questo proprio è soltanto il Circolo di Roma, cioè un'entità, diciamo così, locale della più grande organizzazione che si muove a livello nazionale. Ecco, io fin qui intanto vi ringrazio. Per quanto riguarda la commemorazione, ogni anno a Piazza Campo dei Fiori c'è un appuntamento vostro. No, ogni anno l'appuntamento è di una cara, anche una cara amica che è la presidente dell'Associazione Libero Pensiero Giordano Bruno. Lei organizza insieme alla città di Nola, insieme al Comune di Roma, i festeggiamenti, diciamo, chiamiamoli così, la commemorazione ufficiale. È una festa, nel senso che noi ci si celebra il pensiero di questo eccezionale e libero pensatore. Naturalmente si commemora la tragedia più alta, no? La sua crudele esecuzione capitale. Comunque sono loro e questa associazione che è, diciamo, una nostra, potrebbe essere considerata una nostra consorella per molti aspetti, che celebrano, che organizzano, che fanno. E noi di solito riusciamo a portare una specie di omaggio floreale che deponiamo ai piedi della statua. Però quest'anno siamo riusciti veramente anche noi ad omaggiare questo grande personaggio in maniera adeguata. Qual è il valore di Giordano Bruno che attraversa i secoli e che lo fa ricordare ancora oggi? Ma prima di tutto la sua assoluta e indomabile libertà di pensiero, proprio la lucidità della sua analisi e poi naturalmente anche il suo coraggio personale, esistenziale. In cui lui in pratica sacrifica la propria vita per combattere il potere dogmatico e assolutista della Chiesa dell'epoca, una Chiesa che tra l'altro sì, c'è stata questa pantomima delle scuse, ma si tratta in realtà di un'istituzione che ha una lunga scia di sangue. Lui è uno delle vittime di questa scia di sangue e non si è mai rifondata, è sempre rimasta a se stessa. Quindi il valore è un valore anche di testimonianza. Contro questa istituzione. Ci racconti anche un po' l'attività della UAR? Dunque, la UAR è un'associazione di promozione sociale, un'APS, che difende, che si batte per tutelare in qualche modo la minoranza degli atei, dei non credenti, da qualsiasi punto di vista li si voglia considerare, da quelli che insomma in qualche maniera non desiderano avere a che fare col trascendente. Non lo ritengono assolutamente né necessario né opportuno. E quindi è una minoranza, e come tutte le minoranze, effettivamente è stigmatizzata e un pochettino maltrattata. Quindi è intanto questo. Questo lo fa anche attraverso la lotta per fare in modo che le leggi e le istituzioni dello Stato siano laiche, siano cioè lontane, disincrostate da quel confessionalismo che da noi in Italia è ancora molto forte, molto potente. Perché ospitiamo il centro della cristianità, il Vaticano. Quindi l'influenza dell'agenda politica, l'influenza che il Vaticano esercita sull'agenda politica della nostra classe dirigente, purtroppo è ancora oggi molto forte. Quindi la UAR ha tutto un enorme lavoro da svolgere per contrastare questa deriva. Per Tornando brevemente al film per ricordare l'appuntamento, cos'è che tu hai apprezzato particolarmente del film di Giuliano Montaldo? Ma purtroppo è una domanda che, alla quale non posso rispondere con tutto il film, perché è veramente un capolavoro. Mi ricordo la cosa che mi colpì, perché all'inizio si presentano delle scene che sembrano non avere nulla a che fare con la tragedia vera e propria che poi, diciamo, prende il grosso del tempo cinematografico, quando a un certo punto si vede questa scena di grande, assolutamente non convenzionale, spregiudicata, quasi una scena di sesso, no? In cui lui, ed è una, in realtà è profondamente correlata con la libertà, la non convenzionalità del personaggio. Quindi tutto il film, diciamo, dall'inizio fino alla fine, proprio anche quel momento drammatico in cui pronuncia la sua ultima arringa difensiva, Bruno, prima di essere condannato ufficialmente, e qui ci sono proprio addirittura lì ci sono proprio le annotazioni storiche, perché è stato registrato da notai, è stato possibile ricostruire la ricostruzione storica del film, è straordinario. Quindi nell'insieme è un film che non ha neanche un minuto inferiore al resto. Ecco, questo purtroppo non sono la persona giusta per dire che cos'è che mi colpisce di più. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Cinema Farnese, domenica 17 febbraio 2019, con la proiezione del film Giordano Bruno di Giuliano Montaldo, un'iniziativa firmata Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti in occasione della commemorazione dell'uccisione di Giordano Bruno. È proprio stato Roberto bellissimo. Sabatini, un abbraccio, un ringraziamento, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi. Grazie tanto.